Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Da questa domenica inizia la versione estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Una selezione, il meglio di, a noi piace chiamarla, di tutto quello che vi abbiamo raccontato in questi mesi sul mondo dei consumi. Consumi che raccontano storie nuove, come diciamo nel nostro promo. Abitudini nate con la crisi ma diventate una strada diversa da percorrere. Sono le nuove tendenze che arrivano da moda, design, pubblicità e marketing, raccontano i cambiamenti della nostra società, cambiamenti che passano anche dal carrello della spesa. Iniziamo tornando a parlare di un tema al quale teniamo molto: bambini e pubblicità. Quanto e come la pubblicità modifica giudizi, aspirazioni e immaginario dei bambini consumatori di domani. A fare da spunto alla nostra riflessione uno spettacolo teatrale andato in scena al Teatro Filodrammatici di Milano. La borsa della spesa. Lei è un'esperta di marketing e la sua azienda prende mira in modo specifico bambini e adolescenti con prodotti, media e servizi, giusto? Prendere di mira non è il termine esatto. Noi ci prendiamo cura. Ecco l'espressione che ci piace utilizzare in azienda. Come è evidente, riviste e fumetti hanno lasciato il posto a radio e televisioni, oggi sostituite da computer, telefonia mobile e social media. E i genitori hanno perso la loro totale capacità di controllo. In altre parole, la vostra azienda si occupa proprio di questo controllo, di strumentalizzare le emozioni del bambino nel momento della crescita. No, noi stimoliamo i desideri. I genitori li gestiscono e i figli li subiscono. Una manager esperta di kid marketing, il suo assistente e una giornalista d'inchiesta sono i tre protagonisti di Assalto ai bambini, primo sguardo, spettacolo che indaga nel mondo dei prodotti e del marketing per bambini, futuri consumatori di domani. Un modo per stimolare la coscienza, il consumo critico nei ragazzi e negli adulti. Ne abbiamo parlato con il regista, autore e attore in scena Corrado Accordini. La riflessione nasce dal mondo che vedo crescere intorno a mia figlia di 8 anni e ho fatto un'analisi sulle aziende che si occupano di kid marketing, quindi modelli di invasione, tutte le strategie di persuasione sui giovani e la gestione della creatività. E da lì è nato un thriller, quindi uno spettacolo che si occupa di una giornalista d'assalto che vuole indagare nel mondo del kid marketing e queste aziende che si occupano appunto di gestione della creatività, in particolare dell'infanzia, dove i bambini non sono più considerati bambini, ma vengono considerati clienti, quindi consumatori, futuri consumatori, e attuano su di loro dei modelli di seduzione sempre più preoccupanti. Ovviamente io faccio uno spettacolo, quindi non è un trattato sociologico, ma prendo come spunto l'argomento. Però la riflessione è sul fatto che i genitori in questo mondo di continua connessione, di continua preoccupazione professionale, non riescono più a vedere con lucidità a volte il mondo del bambino, abbandonano il bambino connesso davanti alla televisione, davanti ai telefonini, lo lasciano chattare per ore e ore. Come viene accolto in sala? Ma ci sono lezioni molto diverse. C'è chi innanzitutto accetta di affrontare l'argomento e la proposta dello spettacolo e lo vive con interesse, e c'è chi invece dice: ma non capisco qual è il problema. Ma come e in che misura la pubblicità, la comunicazione commerciale in genere influiscono sulla crescita, sui modelli e le aspirazioni dei più giovani? Lo abbiamo chiesto ad un'esperta, Francesca Romana Puggelli, docente di psicologia sociale all'Università Cattolica di Milano, autrice di Spot Generation. I bambini purtroppo passano ancora tantissimo tempo davanti alla televisione, è diverso per quello che riguarda ad esempio gli adolescenti, ma i bambini la usano ancora tantissimo, per cui sì, siamo tuttora in una spot generation. Quali sono le dinamiche attuali di kid marketing, quelle che influiscono su questa spot generation? Soprattutto direi che passano attraverso gli spot televisivi innanzitutto. Nei spot televisivi quello che viene presentato è un bambino ideale, che quindi funziona per il bambino spettatore che lo guarda come modello, no? Da voler raggiungere, un bambino sempre un pochino più grande e che soprattutto raggiunge il suo scopo, la felicità, no? Il benessere, diciamo, attraverso l'acquisto del prodotto, che è un po' la stessa dinamica che viene utilizzata per gli adulti, no? Quello per i bambini però ovviamente è molto meno sofisticato e molto più diretto. Perché la comunicazione commerciale è uno strumento di modellizzazione sociale e come influisce nella crescita del bambino? La pubblicità è una delle fonti dell'immaginario collettivo, questo per tutti, sia bambini, no, più, sia adulti, attualmente è questo, no? Ed attraverso appunto questo meccanismo vengono costruite delle vere e proprie rappresentazioni sociali, no? Delle norme a cui i bambini guardano per sapere come comportarsi, che cosa fare. I bambini, per sapere come comportarsi, quali sono i comportamenti vincenti, quelli che vengono più premiati nella società, guardano la pubblicità, prendono da questi modelli che vengono rappresentati e le copiano, ovviamente con tutti gli effetti negativi del caso. Ed esiste un premio che viene assegnato ogni anno alle pubblicità amiche dei bambini, spot e campagne che tutelano l'immagine dell'infanzia. È promosso da un'importante organizzazione impegnata nella difesa dei diritti dei bambini. È arrivato il momento di dire basta. I germi possono annidarsi anche nel più pulito dei bagni. Funghetti. Bel colpo. Era facile. Stai attento ai pesci volanti, Stai perdendo, papà. No! Sei terribile, ah, papà. Sì? Erano alcuni degli spot premiati quest'anno con il Child Garden Award, il riconoscimento di Terre des Hommes per le pubblicità amiche dei bambini. Le pubblicità che hanno saputo, cioè, offrire l'immagine più corretta dei bambini, coniugando il rispetto dei diritti dell'infanzia con un linguaggio comunicativo efficace. I premiati di questa quinta edizione sono IKEA, Nikon, Menarini, Unilever e Nintendo. Trovate l'elenco e le motivazioni sul sito terdesom.it e sulla nostra pagina Facebook. L'autenticità è l'elemento che li ha uniti, ci dice Paolo Ferrara di Terre des Hommes Italia. La capacità di parlare ai bambini e alle loro famiglie mostrando un'immagine del bambino senza che questa diventi un uso strumentale. In genere quello che viene premiato dalla giuria di esperti è l'autenticità, la capacità di non usare appunto il bambino come strumento di vendita, ma inserirlo all'interno di un contesto che è quello quotidiano, viene rappresentato per quello che è, non come un piccolo adulto, e tutti conosciamo e abbiamo in mente pubblicità in cui invece il bambino viene trasformato precocemente in un macio oppure la bambina in una lolita. Ecco, in tutti questi casi la giuria ritiene che si possa prendere in considerazione una campagna pubblicitaria come campagna rispettosa. Le bambine e i bambini non sono oggetti, bensì soggetti attivi, con la loro dignità, i loro gusti, speranze, sensibilità, idee e valori di cui si arricchiscono. Quella che sentite in sottofondo è l'attrice Sonia Bergamasco in occasione della premiazione il 7 novembre scorso a Milano. Ha letto La Carta di Milano, un documento nato proprio dall'esperienza del Child Guardian Award. Redatta da 70 esperti del settore, La Carta di Milano è un documento in 10 punti sul rapporto media minori, per il rispetto delle bambine e dei bambini nella comunicazione, per un uso corretto della loro immagine lontano da abusi e strumentalizzazioni. Sul sito cartadimilano.org potete sottoscrivere e condividere questo impegno. Ancora Ferrara. Mi piace ricordare, perché veniamo da un anno in cui abbiamo molto focalizzato l'attenzione sul rispetto del genere e sulla discriminazione di cui ancora oggi le bambine, sia nei paesi del sud del mondo sia in Italia, purtroppo sono vittime, l'articolo 6 che è proprio focalizzato su questi punti. I bambini, sono femmine, sono maschi, con lo stesso diritto a essere rispettati come persone a tutto tondo. La comunicazione non deve rappresentare il genere in categorie fisse, esaltando attributi di virilità e forza da un lato, di dolcezza e remissività dall'altro. Questo secondo me è un punto molto importante che tra l'altro in qualche maniera si riallaccia a tutta una serie di discussioni che negli ultimi anni sono state fatte sul corpo della donna in pubblicità e nella televisione, e che secondo noi devono partire da come già l'immagine femminile viene utilizzata già dalla prima infanzia.